strange beat dropper. Sette giorni un death, ce ne ho messi sette. Le prospettive erano queste, tempistiche strette. Succhia sangue come in Italia, che la cosa sia chiara. Vengo a prenderti in sette giorni come Samara. Sei come Jimmy Raffin, la come Rita Franklin. S come il sol, sempre al centro del ciclone. Ho il ricordo di Otis Stradding. N come Nina Simone, compone il mio nome. E non dimenticarlo in un prossimo futuro. Saprai che quello che ti spacca il culo è uno dei pane duro. Intrippato col poker, original chambi dropper. Click Black Mamba ed Acra Sound Performer. Big up Drone, Tommy Rapp, yeah, Ciuco e Magilla. Warren e Flam, Speaker, Skull, Schizzo e One Killa. Kawa, Thunder, Benta, Bone, Giacalone, Giali. Brucio, Zelo, Gila, Spano, G-Punk, Nino, P. Nadir, Livia, Lore, Serena, Giulia, Biker, Pe. Sara, Sonia, Popo, Zero, Moa, Leo e Gia. Guido, Luisa, Danny, Zago, Ryan, vari amici fusi. E per voi rappusi ci vediamo in Badly Music.